che mai asciuga le tue lacrime. C'è il sole su di noi, ritorna quando vuoi da me. Se mi rimpiangi ancora un po', deve esserci qualcosa che tu hai lasciato qui. Anche se non lo sai, forse il temporale tornerà, forse altre volte soffrirai, ma il sole torna sempre in cielo prima o poi, e tornerà il sereno fra di noi. Torna accanto a me. Forse il temporale tornerà, forse altre volte soffrirai, ma il sole torna sempre. Non c'è più.